Pronto? Sì, contrada imperiale della giraffa? Sì. Senta, ma non vi vergognate? Avete ammazzato l'ennesimo cavallo. Ma perché non va a pigliarselo nel culo lei? No, nel culo se la pigliano i poveri cavalli. Pronto? Contrada della tartuca? Sì. Voi siete colpevoli di questo continuo, terribile olocausto dei cavalli che vanno a morire per il vostro divertimento. Ma se lo va a pigliare il culo! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. No, ma continuo ancora con le sardine. Oh, sono due mesi che parli solo di quello dalla mattina alla sera. E per fortuna che non te ne fregava niente, fenomeno. Non te ne fregava niente, tutti i giorni sei lì, come Porro, come Giordano, come Feltri, come tutte le merde pseudo-giornalistiche che stanno dalla tua parte, eh? Sono una banda, un gruppo di ragazzi e vi accanite perché vi danno fastidio. Cosa propongono? Cosa propongono? E dall'altra parte che cazzo c'è? Che cazzo propongono? Ci sono altri giovani, c'è altra gente? A parte la paura degli immigrati, parlano di qualcos'altro sti fenomeni, eh? Dai, vai a farti un giro, là, Cruciani, vai dalla D'Urso, che lì quello è il tuo posto, con Porro, Giordano e Feltri, vai dalla D'Urso, fenomeno. Fallo anche tu e come no, si guadagna di più, è comodo, qui nessuno diventa autonomo, senza fare un po' il fenomeno, tutti vogliono un fenomeno, fenomeno, ti vogliono un fenomeno, fenomeno, e poi diventi un fenomeno, cadi a terra in questo domino, frate fammi fare il fenomeno. Cambiato da quando è arrivato il porno amatoriale, gli attori non sono più dei veri attori, così tutto il resto è andato a puttane. Amici della 100%, questa è tanta roba. Allora, ti vuoi presentare? Ciao ragazzi, sono Veronica Di Barletta. Tu devi finire di scassarti la minchia. Dobbiamo unire questo territorio. Allora, perché il flusso degli studenti deve solo essere da sud a nord? Non è possibile che uno possa avere un interesse a scoprire un'eccellenza del sud, perché il dialetto napoletano, la lingua napoletana ha meno valore della lingua inglese. A Napoli! Io avevo già stato a Napoli, non volevo dire manca niente, perché io come mia scuola si fa. Viene da far uccidere Don Marco San Francesco, Puccio! Mio nipote è stato in Inghilterra a fare il master. Buon compleanno Parenzo, l'unico regalo che posso farti è prenderti a calci nel culo sul mio ring. Rome or death. Dei Blasco number one. Dedicato a te, David. Questo è per te. Siamo qui, eccoci qui. Ovviamente reduce da Firenze, poi addirittura Siena, e non entriamo nei dettagli. Sì. David Parenzo di nuovo a Roma, distrutto ma grande combattente. Buonasera amici, grazie per questo, come dire, omaggio al mio genetliaco con Rutti Scorregge. Grazie. Nello incredibilmente stile. A Milano per il secondo giorno consecutivo dopo una serie di peripezie di cui non diremo nulla tra Firenze e Milano di cui non diremo Alberto assolutamente Gottardo. Nulla. Diciamo che in questo 2020 sta trionfando più l'amore dell'odio. No, incredibile ragazzi. Allora, io partirei subito molto forte, ragazzi. Sì. Perché poi dicono che sono io che ce l'ho con la Chiesa cattolica. Ma quando mai? Ieri mi hanno accusato addirittura di avere fatto della blasfemia sul Santo Padre. Ma di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Ho semplicemente detto: paragonarlo ad Otelma non è una blasfemia. Ragazzi, no? I veri atei, dovrebbe il valore delle cose che dice un signore con la tonaca bianca che risiede in Vaticano, e il valore delle cose che dice un signore in terra, Princeps Ecclesia, è il vicario di Cristo in terra. Come dici sempre, appartiene a un'altra parrocchia, perché mi rompi le balle sul vicario? È un'altra di azienda, terra, perché io ho rispetto per la religione che rappresenta milioni posso di persone. Posso dirti una cosa? Devo fare persone, l'elogio, poi chiudo questa parentesi. Devo fare l'elogio al presidente francese Macron, che difendendo la ragazzina di 16 anni. Che nei giorni scorsi aveva attaccato pesantemente l'Islam dicendo che è una religione di merda. Il presidente francese Macron, come direbbe Parenzo, cos'è che ha fatto? Ha detto: noi siamo un paese dove esiste il diritto alla blasfemia. Ma una vergogna. Come il diritto alla... Ma no, lascia perdere, lasciamo perdere quella roba lì. Il diritto alla blasfemia. Cioè il diritto non alla bestemmia, non c'entra niente. Prova a buttare giù il re di denari in seconda di mano e vedi il diritto alla blasfemia. No, il diritto non c'entra. Non è che la blasfemia nel modo in cui la concepite voi, buzzurri maledetti. Era la blasfemia, cioè dire ad attaccare in maniera feroce, forte. Non sei d'accordo, perché naturalmente tocca anche la tua parrocchia. No, perché non esiste il diritto a insultare un'altra religione. Non è vero che è un diritto, è una sciocchezza comenista laicista. Laicista comenista. Guarda che bel neologismo che ho creato. Ragionate su questo neologismo: laicismo comenista. Ha ragione Macron. Laicismo comenista. Se io dico l'Islam è una religione di merda, non nessuno mi deve rompere i coglioni. È vergognoso, è vergognoso. No, come ha detto è un quella ragazza lì. A miliardi di persone, allora, inutili. Perché ce l'ho ancora oggi con esponenti del clero? Perché? Perché c'è padre Fanzaga, che non è uno qualunque, non è un passante. Padre Fanzaga è sostanzialmente il capo di Radio Maria. Milioni di persone ascoltano Radio Maria, pendono dalle labbra di padre Fanzaga. E qui si sta parlando non di religione, non di cose esoteriche, non di cose particolarmente bizzarre. Si sta parlando del coronavirus. Ora io dico una cosa: cosa diavolo c'entra il coronavirus con la religione? Persino Parenzo non, cioè, non, no, non, che alla fine è una persona ragionevole, non è che dice che ci può essere qualche collegamento. No, non ci può essere qualche collegamento. Senti invece padre Fanzaga. Poi tu dimmi se non precipitiamo immediatamente, non dico nel Medioevo, che sennò poi ti incazzi, ma precipitiamo in un mondo di assurdità dove questa religione è, e dai. E questo evento inaspettato è accaduto in un momento particolare, cioè in un momento in cui la Madonna lanciava messaggi molto allarmati, come sappiamo, sul fatto che il piano di Satana di far sì che l'umanità metta da parte Dio e invece l'uomo indichi se stesso come Dio. Ma cosa c'entra i messaggi della Madonna? Ma ragazzi, ma state ascoltando o no? Mamma quello mia. Che viene da esponenti del mondo clericale. Va bene, ma padre non fa Dio male Fanzaga, a nessuno. Ma non fa male a nessuno, però. Ma non fa male a nessuno. Cosa c'entra? Senti, accade poi nel bastione del comunismo. Accade nel bastione del comunismo. Ma perché ti disturba così? Perché non ne posso più di questa gente che ti vuole ottenebrare il cervello. Questo evento che è accaduto in Cina è accaduto proprio in un contesto politico, economico, sociale particolare, cioè proprio quello che è rimasto, diciamo, il bastione ideologico e politico del comunismo e del materialismo, cioè la negazione di Dio, la negazione della trascendenza. Ma cosa c'entra col virus? Poi dice: col coronavirus abbiamo aperto gli occhi. Ma quali occhi hai aperto, con chi? Con che cosa? Con questo coronavirus abbiamo aperto gli occhi. Mamma perché mia. Il coronavirus è venuto in un momento, in un momento giusto. Giusto. Cioè, pensate, cari amici, al messaggio della Madonna dato a Ivan il 17 settembre. Ma non c'è nessun messaggio. Drammatico. Non c'è messaggio. Dove la Madonna c'è gente ha che detto muore, non c'è messaggio. No. Si sta realizzando il piano di Satana, cioè che l'umanità ma quale mette da non parte c'è Dio Satana, per mettere se stessa al posto di Dio. Io ti difendo anche, ma come si fa? Cioè, sotto questo gode della morte di migliaia di persone. Migliaia ancora no. Satana, come si fa? Sussurro, perché. E quindi è un ammonimento del cielo. Ma quale? Attraverso questa pandemia, la Madonna ci dà un messaggio chiarissimo. E forse il fatto che si chiami corona, perché ha la forma di corona, no, questo virus, no, non è anche un messaggio che la Madonna ci dice: pregate, pregate, ma pregate. I medici, no, pregate, medici, scienziati, ci vogliono. È un messaggio, sbronzatevi con la birra. Il posto giusto per il Vaticano è una città stupenda che si chiama Avignone. La Zanzara. Dove sei, veneti? Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Martani! Quanto mi ingrifi, peccato che non sia vegano, ma quanto mi ingrifi Martani, quanto mi ingrifi e quanto li metti sotto questi, amica mia! Master! Notizie che ci siamo persi durante questa settimana, ragazzi. Caro Gottardo, notizia caro più importante, Parenzo, vorrei segnalartela per favore, perché qual è, veramente qual è che mi fai scendere la tensione? Questa è l'Italia che noi dobbiamo ricordare, non l'Italia di quei sporchi, di quegli sporcaccioni che portano delle trasmissioni, non l'Italia dei neofascisti, dei nazisti, degli odiatori, delle pornostar, delle squirtatrici. C'è un'altra Italia oggi a Milano. Qual è dell'Italia di Daniel, un ragazzo di 27 anni che da bullo è diventato educatore. Oggi ha 27 anni, ha completato il corso di studi in scienza della formazione. Ad applaudirlo all'Università Cattolica c'era anche la donna, la magistrata, che lo ha messo in galera e lo fece condannare. Questa è la bella Italia, quella di Daniel, un ragazzo difficile, cresciuto a Quarto Giaro, ma che grazie allo Stato, grazie alle organizzazioni non governative, è passato dal carcere, dal Beccaria a San Vittore. Ma vai a Radio e Maria. Alla fine ce l'ha fatta e ora insegna ai ragazzi emarginati a riscattarsi. Questa è l'Italia che dovresti portare in una trasmissione radiofonica. A cosa c'entra? Questa è l'Italia, grazie c'entra? Daniel. Ma grazie Daniel, a cosa? La Zanzara è con te. Ma la Zanzara, tu e presto lui verrai in trasmissione. La settimana prossima ti inviteremo per raccontare la tua storia. Grazie. Ma perché non va direttamente a Radio Maria? Non so. A proposito, Fabrizio da Milano, che fine ha fatto? Ma scusa, a tal proposito, quella è l'Italia. Ma perché non vera ti leggi la, perché, no, veramente la storia di Daniel? No, l'hai seguita? Ma noi ci siamo no persi una settimana, no, non me ne frega un cazzo. Devo dire auguri al signor Daniel, sì, ma della sua storia non me ne fotte nulla. Ci sono storia, migliaia di storie di persone che prima erano dei delinquenti e adesso sono delle persone normali. Certo. Sì, ma tu capisci la potenza del magistrato che l'ha sbattuto in galera e che oggi era ad applaudirlo? Per lo stesso ragionamento, pensa quanto stronzi sono quei magistrati che sbattono la gente in galera e questi poi tornano a delinquere. E allora, vabbè, che storia è? Ma che storia è? Ma scusami, dai. Ma tu sei fuori per sempre dalla maggioranza. Ma quel qualunquismo allora, ragazzi, è? Allora, ci siamo persi però una notizia fondamentale di un'altra settimana. Vengo ad apprendere che dalle parti di Bolzano un signore era stato... Pensate voi a che cosa può arrivare l'animalismo convinto, la follia. Nei giorni scorsi una sentenza di assoluzione, per fortuna, un giudice a Berlino, l'abbiamo trovato, un signore che per legittima difesa nei confronti del figlio aggredito da un gallo cedrone. Da un gallo cedrone. Cioè un gallo cedrone, che credo sulle piste da sci, aveva assaltato, dato l'assalto, come direbbe Capanna, dato l'assalto a un ragazzino. E siccome sono pericolosi quando sono soprattutto in una fase particolare... Ma se lo voleva inchiappettare? Sì. No! Sai, gallo... Il gallo cedrone quando è in amore. Quando i galli cedroni sono in una sorta di tempesta ormonale, vedi, possono eccolo, anche impazzire. Eccolo, sì, certo, come le oche. Nel periodo della riproduzione. Come le oche. Questo gli ha dato una racchettata, lo ha ferito, poi questo gallo cedrone è morto. Benissimo. Ed è stato condannato da un PM, un decreto penale, a 2500 euro. Ha fatto ricorso ed è stato assolto. Dunque, botte al gallo cedrone che attaccò il figlio, assolto per legittima difesa. Ma voi vi rendete conto che noi abbiamo perso tempo in tribunale perché non so chi, non voglio dire nulla perché è stata credo la forestale, dunque non voglio attaccare i forestali con male parole. Lo hanno portato in tribunale un signore perché aveva dato una racchettata a un gallo cetrone. Abbiamo perso tempo, soldi, eccetera, per arrivare poi ad assolvere giustamente uno perché poi hanno capito dalle telecamere che non aveva fatto niente. Il gallo cetrone, le ultime parole ragazzi, erano: ti porto via tutto quel poco che hai. A proposito di galli cetroni, il signor Santuzzo Samminchia, capo delle sardine, amico quello del mio, cerchietto. Intanto il cerchietto magico mi segnalano che nonostante i ripetuti e ripeto ripetuti annunci che sarebbe stata l'ultima volta, basta televisione, ci siamo esposti troppo, mi hanno fatto un elenco di trasmissioni dove sono andati. Vabbè, tra lui e l'altro che si chiama Donnoli Santori, 9 febbraio che tempo che fa, questo me lo segnala il mio amico Falcioni, 12 febbraio l'aria che tira, 13 febbraio Piazza Pulita, Donnoli, 7 febbraio Tagadà, 9 febbraio Stasera Italia, 10 febbraio Agorà, 14 febbraio 8 e mezzo. Scusami. Dunque aspetta, fake news, avete fatto delle fake news, avete propagandato delle fake news, non è vero che non volevi più andare in TV, cazzata, attacchi quelli delle fake news, sei una fake news, sei tu, cerchietto magico, Santuzzo, come diciamo, una fake news in persona. Quando ti vedono dovrebbero dirti: senti, no, avevi detto che non vieni più qui. Fake news. Dunque, quando dice non mi candiderò mai in politica, e noi dobbiamo credere che non sia vero, perché magari ci ripenserà. L'ha già magari detto, forse a livello locale ha detto, ragazzi, ecco, sono una fake news. Appena parlano, sono già una fake news. Ma a proposito dell'idea straordinaria dell'Erasmus all'interno dell'Italia tra nord e sud, idea come dire abbracciata dal mondo accademico e già diventata proposta di legge, poi tutto è possibile, la politica italiana se ne potrebbe mettere tutti i colori. Senti la spiegazione, perché la lingua napoletana ha meno valore della lingua inglese? C'è una cosa incredibile, la lingua napoletana di Santuzzo, una cosa pazzesca. Invece che parlare di connessioni, invece che parlare dobbiamo unire questo territorio, allora perché il flusso degli studenti deve solo essere da sud a nord? Non è possibile che uno possa avere un interesse a scoprire un'eccellenza del sud, perché il dialetto napoletano, la lingua napoletana ha meno valore della lingua inglese? Perché ha meno valore della lingua inglese, Santuzzo? Ma di cosa stiamo parlando? Ma scusami, questi semi disoccupati, fissati con l'Erasmus, ma andare a lavorare in fabbrica, no? Ma di cosa parliamo, Santuzzo? La lingua napoletana. Fai l'Erasmus per il lavoro, non per andare a trombare come fanno tutti gli Erasmus in giro ma per l'Europa. Ma se tu devi studiare il coronavirus, a in quale anni cazzo di lingua lo studi il coronavirus? Su quali sì, papers, come si direbbe, no? Non voglio fare l'elite, ma su quale papers li studi? In napoletano, in calabrese? C'è qualche problema. Dai, che si su, dire, ragazzi. Sì, qualche problema. Perché il Salvini erotico Tamarro e noi erotici romantici ne vogliamo parlare di questa cosa? Di questo, di questa frase un po' criticabile. Salvini un po' criticabile, è un erotico sì, Tamarro. Noi erotici sì, romantici. Sciocchezza, dai, sciocchezza, sciocchezza. Bisogna essere sinceri. Ma uno quando va 10 ore in trasmissione, è chiaro che ti scappa qualche minchiata, no? Lui arriva sotto, dentro la pelle delle persone, no? Glielo riconosci tu questo a Salvini? Sì, però ci sono due modi per essere erotici, diciamo, perché alla fine si parla di Salvini erotico, questo ricordate. Erotico. Abbiamo stabilito qua. È stato lui, Lui ha detto che Salvini è erotico. Però ci sono due modi. Un modo è essere tamarri e un modo è essere romantici. Salvini è un erotico tamarro e noi proponiamo un erotico romantico. Copione Marri citato, posso secondo dirti, me chiaramente è tutto concordato, però una, no, questo non, non lo so, può dare, secondo me sì, però no, posso dirti una cosa, che modo sono ormai arrivati al battutismo da talk show, sì, cioè da persone che si presentano come grande novità, e non è inutile di sì tutti e due, perché tu eri in piazza a Padova a dire Forza Sardine, c'era un sacco di figa a Padova, ce n'era una quantità pazzesca, Antonio provincia da Roma, Gottardo è malato, mai visto così tanta gnocca dai tempi del Festival Bar. Antonio dalla provincia di Roma. Malato. Ciao ragazzi, malato. Senti, ma c'era ieri là il dottore che diceva, no? Grosso, si parlava di peni curvi, amico mio, di peni ricurvi e di micropeni. Di micropeni. Ah, di il micropene? Beh, cazzo, guarda la grandezza fa qualcosa, Io c'ho un amico che, quanto mi dicono, ma ce l'ha particolarmente largo. E vabbè, e chi se ne frega, cioè, uno, l'amico, due, sempre l'amico. Vabbè, allora sempre Antonio, l'amico. Cosa vuoi da noi? Oltre a dirci che il tuo amico ce l'ha particolarmente largo, e va bene, siamo tutti contenti. Se lui è contento, noi siamo contenti di riflesso. Molto, molto. Siamo contenti di riflesso. Cosa vuoi di più? Oppure ti devo mandare a fare il culo? Antonio da Roma, un altro Antonio da Roma. Proviamo con un altro Antonio da Roma. Vai, Antonio da Roma. Fermo. Sì, buonasera. Sì, veloce, veloce, 10 secondi, Antonio. È veloce. No, io ho fatto cioè, l'iperazzismo che. Che ogni cosa che succede in Italia, voi giornalisti italiani, fate mettete in una situazione che l'italiano può essere razzista per forza. Ma di chi parli in particolare? Di chi parli? Dei cinesi? Di che parlo? Dei cinesi. Ma torno da te immediatamente, amico mio. Quando si parla di cinesi, io li bacio, li adoro, mi faccio massaggiare, faccio di tutto. Torno da te dopo il titolo generale radio. Quello. Allora, la figura che cerchiamo tiene l'azienda sempre in carreggiata. Sa quando fermarsi se ha un ostacolo davanti e sa leggere i segnali che si trova di fronte. Pensa di farcela? Ford Focus con frenata automatica, mantenimento corsia e riconoscimento segnali stradali. A 295 euro al mese, IVA esclusa, con anticipo zero. E in più assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria incluse. Il noleggio Ford All Inclusive va tutto di serie ed è per tutti, privati, aziende e partite IVA. La Zanzara. Complimenti! Il giocatore è in ospedale, è alla frattura e lei non ha fatto nulla. Gaucci, noi siamo di Serie A, Gaucci! Vai a fare il culo, è tuo fratello! Sarai con me in paradiso oggi e gloria a Dio. Comunque, giusto per inciso, Gesù Cristo sta tornando. A mio discapito, capito? Buon compleanno, tigre. Continua a lottare per noi. Auguri Davidino Bello, tanti auguri, e regalatelo un trans, su Madonna, per una volta, che sarà mai? Spendili quei 100 euro che non ti cambia niente. Tanti auguri Davidino Bello. È un'ottima idea. Potremmo regalare F-Ball. No? Posso, al no, nostro grazie. David. No, no, io voglio dire, non ho nulla contro i transessuali, le cose. Però le tu dici, però, non però. Avendo io mai vi chiedo scusa, davvero, mi dispiace. Io, ancora una volta, sono affezionato dall'età dei 15 anni, se non ricordo male, 16 anni, adesso non saprei, a questa storica azienda, un'azienda che ho sempre frequentato con costanza, con magari onore, alcuni onore, con costanza e onore in momenti diversi della vita, ma sempre con una certa continuità, senza mai cambiare azienda. Dopodiché io rispetto a voi che però mi piace. Tu dici mai, not in my name, not in my name. A te ti piace cazzo? No, cara, no. Ti chiedo scusa se non sono moderno. No, chiedo scusa, davvero. Capisco che cioè sono non sei uno tendenza. Di quelli che no. Io no. te lo chiedo ogni volta perché mi stupisco della tua chiusura su questo perché fronte. Perché sei tu lo chiedi a me, perché però vuoi ammettere a te stesso che lo proverai o lo hai già provato. Ma la curiosità c'è. Tu e quell'altro maiale che è lì a Milano, che è uscito definitivamente dai canoni rispettabili della maggioranza di no, allora io a trans anch'io non andrò mai. Devo dire che però gli uomini europei, io per primo, trascurano fino ad una certa età il piacere, ad esempio, dell'anilingus, di cui secondo me dovremmo parlare in maniera diffusa una di queste puntate. Ragazzi, però al di là di questo io voglio esaltare oggi, fermi di questi rumori, voglio esaltare, ti sembrerà strano, vedi, ho esaltato Macron per quella storia della blasfemia, del diritto alla blasfemia contro l'Islam radicale, difendendo quella ragazza di 16 anni, quella studentessa che ha tuonato contro l'Islam, contro i danni che provoca l'Islam, e dicendo che l'Islam è una religione di merda, e ha tutto il diritto di farlo senza per questo essere braccata, offende. E senza per questo essere vilipesa, senza essere attaccata, senza essere minacciata, eccetera. Sono le stesse cose che diceva Borghezio anni fa, peraltro. Più o meno sì. Voglio difendere anche anche la regione toscana governata, la rossa regione toscana governata dalla sinistra. Perché la difendo? Perché hanno proposto una cosa magnifica, osteggiata non so perché da quelle che Parenzo chiamerebbe le destre. Le destre. Si dice sempre le destre in maniera dispregiativa. No, le destre italiane. Perché dico la regione toscana? La regione toscana vuole proporre una cosa molto semplice, che anche i detenuti possano scopare in tutta tranquillità. Magnifico, sono d'accordo. Cioè, cosa vuole fare la regione toscana? Creare delle zone adibite all'interno delle carceri, delle stanze, eccetera, in cui i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di 6 ore, massima di 24, con le persone autorizzate ai colloqui. Cioè, sostanzialmente il diritto a trombare dentro la galera. Ma ragazzi, cosa c'è di più straordinario? Per cui c'è una mignotta, fa richiesta anche al tribunale di sorveglianza. Ma stai scherzando? Ma non c'è dubbio, ma è straordinario. Ma perché non possono usufruire? Io ho i soldi come detenuto, non è che te le devi pagare lo Stato le mignotte. Ho i soldi da spendere, voglio una mignotta al mese. Beh, ma perché non è posso? È un accessorio di pena. Ma è un accessorio di pena, d'accordo. Però ragazzi, questo è il punto fondamentale. È un accessorio perché di pena, non è sbagliato. È sbagliato dare la possibilità ai detenuti di trombare. Perché? Ma sei perché, scusami, già non fai un cazzo la mattina e la sera, guardi la TV e in più ogni tanto trombi. È una vita migliore di quella che facevo io fino a poco tempo fa. Scusami, no, sì, anche questa. Ma no, ma ho capito, ragazzi, ma io non sto dicendo che devi essere, come dire, che bisogna pagarti la puttana o pagarti qualcuno. Sto dicendo un'altra cosa molto semplice. Sei in carcere non scopi, se no. Ma no, ma quelli che hanno le pene di 5-1 postale 5 anni in galera, certo, senza scopare. Certo, certo, dai, su, assolutamente. Ma perché vai dovrebbe fare? Siete non disumani, c'è senso. Disumani. No, io sono d'accordissimo invece. È un provvedimento umano straordinario. No, no. E allora già che ci sei, li liberi anche. Ignazio da Napoli, vai. Ignazio da Napoli, fammi sentire Ignazio, dai. Sì, allora, niente, volevo dirvi... Oh, eravamo con Antonio, scusami Ignazio, ti richiamo subito, aspetta, resta lì. Antonio da Roma, vai. Antonio? Oh. Sì, pronto? Sì, dimmi, cos'era sta storia del razzismo cinese? Sì, fate le trasmissioni che fate passare gli italiani per razzisti. Ma chi li fa passare per razzisti? Quel rotolo di coppa che ci sei andato anche due o tre volte. Chi? Che fa vedere che se bacia i cinesi. Io so 10 anni che stanno qua, non sono entrato mai dentro un negozio del cinese. Che so, razzista? Ma chi ti ha detto? Ma se vuoi non ci entri nel tuo negozio, se vuoi ci entri. Entro perché lo sai perché non perché? C'entro. E non lo so perché non c'entri. Il parroco che stava dicendo qualche cosa vera, gli avete levato la parola dalla bocca. Ma chi? Che stava in trasmissione. Ma chi? Che voi, chi stupide tu c'eri in trasmissione quando quel parroco stava dicendo dei cani, dei cose, anzi non ha detto niente. Perché in Cina non buttano niente. E allora? E se ogni tanto esce qualche virus, sono cazzi loro. Sì, d'accordo, Antonio. Io capisco. Ma perché tu non entri perché tu non entri dentro il negozio? Perché è così ignorante? Perché per quale motivo? Dieci anni fa ho visto. Perché è così ignorante lei? I cinesi non buttano niente. No, ma ignorante sei te. Senti, scusa, Parenzo. Perché è così somaro lei? Ma per quale motivo? Per quale motivo lei è così ignorante? Naviga sui bellissima. Luoghi comuni. Perché? Perché lei parla per luoghi comuni? Per quale motivo? No, perché? Il giornalismo che porta questa gente. Ma scusa, ma io devo tenere un po' avere paura di uno che mi può contagiare. Ma dove? Lei ha il cervello contagiato. 30-40.000 clandestini cinesi. Ma lei è contagiato, lei. Ma che ne sai? Per non parlare, primavera. Per non parlare, signor Antonio, del fatto che i cinesi oggettivamente non muoiono mai, giusto? Sì, carità, non muoiono mai. Il luogo comunista, però, Antonio. Non me ne frega niente. Io, il virus viene dalla Cina o no? Sì, certamente. Sì, allora, evito di frequentare un cinese. Sono razzista? Ma no, è un coglione. Molto più semplice, molto banale. Ma il razzismo è una cosa seria. Ma perché non smetti di parlare? Prima ti sei messa a piangere per una stronzata. Giusto, questa è la storia. Per una stronzata. Mi sono messo a piangere per una storia perché straordinaria. Perché non capisci la vita della gente che ha sofferto. La vita di questo ragazzo, Daniel, che è stato in carcere e che ora si è laureato in scienza della formazione, e ad applaudirlo c'era il magistrato che l'ha sbattuto in galera perché era un giovane bullo. Questa è la forza dello Stato. Il ragazzo è un fiore. Chi? Ma che cazzo ne sai? Tu ti ho detto della vita, non sai niente. Se per cortesia mi fai parlare, io dopo all'ultimo. C'ho una bella notizia per te e per quell'altro, come cazzo si chiama? Là, mi ricordo. Gottardo. C'ho una bella notizia. Una persona molto per bene che si chiama Cristiano, che è un grande autore televisivo, mi scrive: bravo questo coglione di Antonio. Allora, siccome coglione l'ho aggiunto io. Allora, siccome la mafia viene dal all'Italia, eviti di frequentare i suoi connazionali. Ma, senti, ma questa ragazzata c'ha ragione. Perfetto. Tu mi hai nominato, mi hai detto pure che sono un criminale. No, non un coglione. No, un'altra volta, un'altra no, volta. No, perché è un criminale? È un coglione. Ma quella era la buona notizia di Antonio. Tu mi hai detto che sono un criminale, come Pertini e De Gasperi. Perché è stato in galera, Antonio, capito? Antonio, capito? È stato in galera. Vabbè, ah, è stato in galera. Aspetta, ma scopava Antonio in galera? Scusa, Luciani, sono stato in galera senza condanna. Vabbè, adesso senza condanna in galera mi pare difficile. Non è possibile. Ma lei ha avuto. Ma voi capite? Ha avuto Antonio, lei che è stato in galera. Ma quanti ne vuoi? Ma quanti ne vuoi in carcere che non ci hanno condanna e poi escono? Ma sì, d'accordo, c'è una custodia cautelare. Custodia cautelare. Custodia cautelare. Senti, ma lei ha avuto rapporti sodomitici poi in galera, Antonio? L'ha mai preso in quel posto, Antonio, finché lei era in carcere, nella solitudine della cella? A te, e svicola la domanda, eh? Antonio, senti, scusa, Antonio, un, un tamponamento se lo sarà preso Contardo, anche lei in carcere, Antonio. Qual è sta bella notizia? Allora sarebbe io 50 anni fa. Sì. Mi trovavo dentro un night. Ma 50 anni fa, ragazza, amico mio, ma 50 anni fa, 50 anni fa. 50 anni fa, sì. È tutto prescritto. 77, tutto può prescritto. Essere 50 anni fa, no? Fermo là, fermo un attimo, fermo. La zanzara. Pronto? Allora, vuoi provare tantissimo il sesso anale, ma hai tanta paura? Sì, mi dica. La terminazione nervosa che è presente dentro l'ano è evidente che procura un piacere talvolta superiore, secondo alcuni. Per cui, ragazzi, ma dobbiamo fare le prossime puntate sulla differenza tra la penetrazione anale e quella vaginale? Dimmelo subito, no. Dimmelo subito, perché mi stai spronando, stai suggerendo, mi stai suggerendo. Tu mi dici di no, dimmi di sì, dimmi di sì che non lo faccio, dimmi di sì. No, grazie. No, grazie. No, grazie. No, grazie. Spero si capisca che odio il razzista che pensa al paese, ma è meglio il mojito. Eppure il liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito. Si chiedono questo da dove uscì, dal terzo millennio col terzo dito. Parlare di eccesso non è eccessivo, sono il fuori programma televisivo. Non ho i superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il signor Parenzo. No, grazie. No, grazie. No, grazie. No, grazie. Eccoci. Possibilità a un paziente psichiatrico di scopare era un problema quando ve l'ho proposto. Adesso Cruciani a favore dei carcerati, killer, pedofili, gente di merda varia, gente che ha ammazzato, stuprato, fatto di tutto. Questo era il demone. Chiaro. Non capito perché è incazzato per il fatto che io sono a favore del sesso per i carcerati, non perché ho capito. Perché mi sa che il demone non scopa da tempo e quindi quando uno non scopa è molto più nervoso. Ma ho capito, ma che vuol dire? Cioè, dovrebbe essere a favore lui, cioè dovrebbe essere a favore di questa cosa essendo stato internato, tra virgolette. È l'invidia della trombata. Dai, eravamo con Antonio da Roma. Il carcerato trombaio. Devo segnalarvi due cose. Il dramma di Razzi, che per il coronavirus non può andare in Corea del Nord, non posso andare da Kim, maledetta epidemia, per la prima volta diserterò le celebrazioni per la nascita del leader nordcoreano. Questo dice Antonio Razzi. Migliorando le condizioni poi di democrazia in quel paese, non andandoci. E poi devo segnalare ancora una cosa, che il comune, fra poco cercheremo di collegarci con il sindaco, il comune di Salò, questa è una notizia importante che campeggia su tutti i siti, il sindaco di Salò e la sua maggioranza di centrodestra hanno detto di no alla revoca della cittadinanza di Mussolini. Ricapitoliamo perché non è semplice. Allora, Mussolini ha una cittadinanza onoraria nel 24, è stata data dunque. Beh, se l'è autodata. Sì, era facile. Piccolo dettaglio. Sì, sì, era facile. Era facile. Nel 1924 si è autoattribuito, sì, più o nella meno sua così megalomania egolatrica, sì, egolatrica, la cittadinanza sua a Salò. Eccellenza. Sua eccellenza di sto... Benito Mussolini. Allora, cosa è accaduto? Che il centro-sinistra vuole che sia tolta questa cittadinanza, come è accaduto in diverse città. Il centro-destra ha detto no. E per me hanno fatto bene, ma che è sta follia? Ma chi se ne frega? Chissà se Mussolini ha mai fatto, ragazzi, il sindaco a Sutri, per esempio. No, ma non lo so, un sindaco no, ma sarà cittadino onorario anche di Sutri. Ma non ho capito una cosa, ma perché? No, era una velata polemica. Sì, lo so. Perché io dico, perché uno deve togliere la cittadinanza onoraria a Mussolini? Spiegamelo, Parenzo, perché? Una persona ripugnante. Ma cosa vuol dire? Dai, Mussolini è cittadino onorario di Salò. Se l'è autoattribuita, non ha senso. Ma ho capito, ma... Quella è una città che, peraltro, come dire, al museo storico su Salò, quindi voglio dire, non c'è nessun motivo. Ma per perché cui bisogna togliere? È lo stesso comune che, peraltro, ha rifiutato la cittadinanza onoraria, cioè, alla Segre. Non, sì, non credo che a Bonn ci sia la cittadinanza onoraria. Bravo. A Hitler, per esempio. No? Bravissimo. Ma quella non è stata data adesso, è stata data io nel 20. Credo, è un reperto che, ad esempio, storico. A Corleone ci sia la cittadinanza onoraria a Bertotò Riina. Neanche a Padova c'è la cittadinanza onoraria a David Parenzo, per esempio. Beh, tra sai l'altro, che, neppure sai che a Felice essere Maniero. Sai che potrebbe essere? Maniero. Potrebbe essere una grande iniziativa. Dovremmo chiamare un grande sondaggio tra i cittadini di Corleone se sono a favore della cittadinanza onoraria al signor Totò Riina. Signor Totò Riina, potrebbe uscire fuori un grande risultato, secondo me. Certo. Cioè, se a Corleone sono a favore della cittadinanza, pronto, comune di Corleone, boh, lei è a favore della cittadinanza onoraria? Tutta un coglionella, eh. Allora, eravamo tutta con Antonio Coglionella. Da Roma, ancora Antonio, ho capito, non vuoi andare dai cinesi. Che cazzo vuoi se non vuoi andare dai cinesi? Che cosa vuoi? No, io no, che voi mandate in dito, che voi, che chi non può incontrare i cinesi in questo periodo è razzista, non è normale. Ma chi l'ha detto che è razzista? Se tu non vuoi incontrare un, se tu, ma perché non ti vuoi avvicinare a un cinese? Io ti farei baciare in bocca, no, un cinese, come ho fatto. Ma bacialo tu in bocca, ma non ho capito, compraci da tu la roba dai cinesi. Ma che c'entra la roba? Casa, vai a ti dica, non buttano niente, lo capisci che vuol dire non buttano niente? Noi i rifiuti tossici qua in Italia li abbiamo sotterrati, quelli ci fanno il materiale, va bene? Ma cosa c'entra, Antonio? Vai a mangiare cinese, vai a mangiare cinese, la carta igienica dai cinesi, ma compraci a te. Ma che vuol dire? Ma quella è la carta igienica normale, ma va. Ma non vuol dire che io i cinesi mi posso vedere solo razzista. Se vuoi parlare di razzismo, ma vuoi andare dentro un coso? Il più grande razzista in Italia chi è stato? Lo vuoi sapere chi è stato? Chi è stato? C'è stato un tuo collega, un grande giornalista, Ezio Biagi, che su un'intervista, io ho visto l'intervista in diretta nel 77. Parenzo, intervieni tu, dai. La sua signora come va? Gli ha risposto, beh, una buona bestiola, una ragazzina che si è comprata a 12 intervenire anni. Non posso intervenire io. Deve intervenire la Treccani, deve intervenire l'enciclopedia Treccani per rimetterlo a posto questo qua. E parlate dell'altri. È cruciale che mi diceva Fabio da Ravenna. Non devo intervenire io. Fabio da Ravenna, basta. Guarda, Fabio da Ravenna, mandare ai matti oggi. Fabio, trogloditi che chiamano. Dimmi, Fabio, involuti, involuti. Dimmi. Ma che trasmissione è questa? Che trasmissione è? Parlare del mio problema, del mio amato cazzo che non è più come quello di una volta e che che è successo? Scusami, Fabio, che ti è accaduto? Che è successo? È da un anno e mezzo che ho la Peyronie. Praticamente ieri, cioè quella, che quella di cui parlavamo ieri sera. Esatto. Il cazzo storto? No, curvo proprio. Altro che storto, magari fosse storto. Cioè quanti curvo gradi, proprio? Scusa, quanti gradi? Adesso è 50 perché 50. Sono sotto cura. Ah, però sì. È arrivato a un massimo di? Giù, 60. Verso, stai ridendo, ma è seria la cosa, cioè sei stato seriamente preoccupato. Ma quanti anni hai, scusami Fabio? 55. Dunque, tutto coincide con quello che ci raccontava ieri il mitologico Mondaini. Quindi fra due anni ti si no, lui ha detto che a partire dai 50, a partire dai 50, certo, il 10% delle persone sono soggette alla curvatura del pisello, cioè si possono svegliare una mattina. Ma te è successo all'improvviso anche a te, Fabio? No, è andato più piano piano. E infatti il mio andrologo, che non faccio nomi perché non mi sembra, per carità, assolutamente, no, altrimenti poi sapremo anche qualche dettaglio in più su chi sei o chi non sei, naturalmente. Oh, beh, non mi interessa questo qui, non è mica mi interessa, cioè zero problem. Ma come fai a trombare col cazzo a 60 gradi? Scusa, ricurvo di 60 gradi. Adesso è 50, grazie a Dio. Vabbè, ma 10 gradi di differenza non farà tanto. È un manico dell'ombrello verso giù a 50 gradi praticamente. Beh, qualcosa del genere. Comunque comunque è divertente. Riesci lo stesso? Perché... Riesci lo stesso o no? Sì, però è veramente fastidioso, fa un gran male nell'inguine alla base del cazzo, ecco. Ma io non ho capito, ma è verso giù o verso su la verso storia? Giù. No, ma che verso giù, è verso giù, anche sì, no. Ma che ne so, perché, tutto perché è possibile. Quando la mia troba amica sta alla pecora, lei si volta e dice: "Oh, è storto." Scusami, Davide, ma tu non sei preoccupato, tu ti avvicini ai 50. Io ho già superato, dunque no, potrebbe accadere. Ne ho 44, non sei, no, oggi ne hai fatti 44. 44. Non sei preoccupato da questa possibile evoluzione delle tue attività? No, no, no, no, no, no, no, non sei preoccupato. No, no, no, rimandatemi la canzone. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ma perché? Dovresti essere preoccupato da quello che ci ha detto ieri Mondaini. Io ho visto che eri molto preoccupato. Molto preoccupato. Ero preoccupato per le parole usate, per la porcheria. Per quelle foto, per il contesto, per questo qui che chiama un radioascoltatore che telefona alla radio della Confindustria. No, non è triste, Fabio. Non è triste. Alle 19:44 per condividere con della gente estranea e milioni di ascoltatori il suo problema all'uccello. Ma non è un grosso problema. Non è un grosso problema. Ride questo. Scusami, Fabio, perché sei così contento? Ridi, ridacchi. Non è più, cioè, perché pensi ormai di essere in dirittura d'arrivo, cioè pensi di essere vicino a una svolta da 60. Sei passato a 50, passerai a 40, a 30, a 20, a 10 finché il tuo pisello tornerà, diciamo, o hai cose diverse, indicazioni diverse da parte dei medici? Allora, i medici dicono che veramente l'andrologo dice che come prima non potrà mai più tornare. Ma questo è brutto. Quindi, no? Questo è brutto. Vabbè, io con i miei giochini, con le mie partner, insomma, si misurava. Però ho capito, cioè non sembri affranto da questa. Ma non si piscia sulle scarpe poi con il conducente in quella posizione? No, perché delle volte è anche divertente, perché alcuni ti possono dire sì, votano e ti dicono al fine, ma è una cosa incredibile, mi tocchi in dei posti dove non c'era mai arrivato nessuno. Vabbè, un uomo col pisello storto contento. Vabbè, ciao Fabio, ciao. Chiedo scusa un momento, pubblicità. La Zanzara. Caro Marenzo del cazzo. Barisoni gay. Comunque mi stanno divertendo le telefonate di questa sera, devo essere sincero. Allora ragazzi, io direi di chiamare a questo punto il sindaco di Salò. Sindaco di Salò, che si chiama Giampiero Cipani. Giampiero Cipani, comincia a scaldarti, caro David. No, scaldati alla battaglia, preparati alla battaglia, che ho saputo che è un personaggio molto battagliero, molto molto caldo. Sindaco di Salò, io vabbè, sono d'accordo, sono con lui, sono al suo fianco, ma non è un fascista, no. È una persona normale, non ho dubbi. Chiamiamolo, vuole, ha detto sì alla cittadinanza onoraria a Mussolini, sì. Non è che ha detto di sì, dice non bisogna toglierla. Pronto? Sindaco? Sì, chi parla? Buonasera, sono Cruciani, come sta? Buonasera Cruciani, sto bene, grazie, lei? Non c'è male, caro sindaco, io sono dalla sua parte comunque. Posso dire la verità, sono dalla sua parte. Sempre. Sento, è molto disturbata la telefonata. Sì, c'è Parenzo che naturalmente rompe le balle su questa cosa di Mussolini, però io sono dalla parte di chi ha deciso. Stai zitto un attimo. Io sono dalla parte di chi ha deciso, e lei tra questi, che non è che si può cambiare la storia. Chi se ne frega di cambiare la storia della cittadinanza onoraria? È una cosa, è come un monumento. No? Perché togliere un monumento? Innanzitutto ci si deve domandare per quale motivo non l'hanno fatto prima gli altri, visto che è dal dopoguerra, giusto, che Salò, giusto, è governato, giusto, dal centro-sinistra. Bravo. Vengono a rompere i coglioni a me perché sono... Giustissimo, giustissimo. È chiaro che è una questione strumentale. Lei di che partito è, sindaco? Mi scusi. Io sono di Forza Italia, quindi si può immaginare. Non ho altre lei. Domande. Fammi sentire. Lei è di centrodestra. Noi siamo di centrodestra, quindi è ovvio che. Non ho altre domande, vostro onore. La seconda ragione è che io non posso cancellare la storia. Noi abbiamo fatto un museo a Salò, sì, nel quale raccontiamo la storia di Salò. E sì, c'è un pezzo della storia di Salò che purtroppo, si identifica con la storia dei 600 giorni, sì, della Repubblica Sociale Italiana. Sì. Dico purtroppo perché io non ho nessuna simpatia, lo dico subito, per il fascismo. Anzi, io sono un liberale parlare. Però lei dice, sindaco, cioè, tu dici, diamoci del tu dici sì, non, sì. Non si può cancellare la storia, perché dobbiamo togliere solamente perché lo chiedono adesso in maniera strumentale per fare casino? Ma è chiaro, no? Ma è chiaro, dai, ma è chiaro che è così. Quale casino? Perché devo cancellare la giusto, memoria? Ma per te ha fatto anche cose buone, Mussolini? Personalmente penso che qualche cosa di buono l'abbia anche fatto. Ancora questa storia, si legge il libro che è appena uscito. Io credo che non serva assolutamente a nulla togliere la cittadinanza, revocare la cittadinanza Mussolini. Sì, io sono d'accordo con te. Solo una cosa, immaginavo che Gruciani fosse d'accordo, non c'è ombra di dubbio. Il tema è una, e nessuno chiede di cancellare la memoria di quella città, anzi, andate a visitare e capite la storia e capite che cazzo ha rappresentato la Repubblica Sociale Italiana, la vergogna della Repubblica Sociale Italiana. La vergogna al servizio dei tedeschi. Ma ciò nonostante, mi calmo, al servizio dei tedeschi, al servizio dei tedeschi, pagati dai tedeschi. Vabbè, ma che c'entra questo? Ciò nonostante, dai tedeschi. Vabbè, ma che c'entra? Ciò nonostante, la cittadinanza onoraria è un riconoscimento che viene concesso da un comune o dallo Stato a una persona che è ritenuta legata alla città per il suo impegno e le sue opere. Che opere e impegno ha dato quella testa di cazzo di sua eccellenza? Allora, facciamo rispondere il sindaco. Benissimo, perfetto, è proprio esattamente quello che ho detto io a chi mi ha chiesto di dare la cittadinanza onoraria alla signora Segre. Esattamente la stessa cosa che ho detto io. Cioè, che cosa ha fatto la signora Segre per la città di Salò? Per il suo impegno e le sue opere. No, che opere ha fatto e che impegno ha fatto? L'opera della memoria! L'opera della memoria dei mortacci vostri! Per Salò, dice lui. E certo, un luogo come Salò avrebbe bisogno di avere una memoria di questa roba. Certo! Ecco, vede, lei si è appena contraddetto, amico mio. Assolutamente no! Beh, sì, assolutamente è un riconoscimento onorifico, onorifico. Non c'è nulla da onorare di sua eccellenza, nulla. Io non onoro nessuno, guardi, stia tranquillo. Io rispetto una persona. Ma che c'è da rispettare? Aspetta. Quindi a me non me ne frega un cazzo di quello che dice lei, guardi, stia tranquillo. Rispetto cosa? Rispetto? Io rispetto tutti. Io sono un vero antifascista, lei invece no. Ma figurati. Lei è un fascista. Ma figurati. Sì, bravo. Sono pronto bravo. A dichiararlo anche in televisione, se vuole vediamo fare il discorso. Io ma quale televisione? Ma cosa dichiara? Ma che dice? Io le dimostro che lei è un fascista. Togliere di mezzo, comunque, una cittadinanza onoraria di un defunto, e d'accordo l'ho detto io, ma l'ha detto Sara quando parlava anche di Tito. Vabbè, insomma. Una persona che non può, può replicare, non si può fare un contraddittorio. Beh, quello è difficile. Perché quello io la penso diversamente, non è giusto. Ma che contraddittorio? Che contraddittorio? Che contraddittorio deve fare? Cosa deve fare? È la storia che l'ha già... Il fascismo non ha bisogno di... Che vuol dire? Che contraddittorio c'è da fare? La storia ha già condannato il fascismo, e ti credo. No, lui dice giustamente è sbagliato togliere la cittadinanza, che è una cosa storica. Siete voi che siete fascisti, cazzo. Voi siete fascisti nel momento in cui vorreste cancellare tutto. Non dobbiamo essere fascisti. Non dobbiamo essere fascisti. E nel momento in cui pretendiamo che un consiglio comunale cancelli la storia, perché ma nessuno vuole cancellare la storia. Facciamo i fascisti. E dunque quelli che vogliono cancellare la cittadinanza onoraria sono fascisti. Ho detto visitate Salò. Chi è stato a Salò si può rendere conto che i salodiani, così si chiamano i miei concittadini, sono tutto fuorché fascisti. Allora aspetta, sindaco, un attimo. Vorrei verificare, sono Gottardo, vorrei verificare di cose. Lei ha giurato, come fanno tutti i sindaci, sulla Costituzione antifascista? E allora come fa a non considerarsi uno spergiuro quando non toglie la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini? Caro mio, è conseguenziale con quel giuramento. Non è conseguenziale, è un ragionamento tutto suo. Quello lei ha giurato sulla Costituzione, legga la Costituzione. Non c'è niente di conseguenziale. Conseguenziale è soltanto chi pretende di cancellare la storia perché non gli piace. Ha ragione, ragazzi. Voglio concludere così. Nessuno cancella la storia. Questo è talebanismo. Guardi, sindaco, la invito a fare un festival cinematografico. La invito a fare un festival cinematografico. Perché no, a Salò è, sta, Mercato Ambientato, un film fantastico di Pasolini, in cui la gente mangiava la merda. E io credo che considerare Mussolini cittadino onorario sia un po' come mangiare la merda. Ma è inutile, non vi tirate dentro in questa cosa. Io sono il vero antifascista. Il sindaco ha perfettamente ragione. Non vuole farsi rompere i coglioni dall'opposizione che per motivi strumentali ha innescato sta polemica per fare casino. Chi se ne frega se una città lascia la cittadinanza onoraria? È una cosa che risale all'inizio degli anni venti. Chi se ne frega della Costituzione? Chi se ne frega dei valori della Costituzione? Questa cosa che è molto divertente. Questa mozione era stata presentata, guarda caso, un mese prima delle elezioni delle elezioni amministrative, l'ultimo consiglio comunale. Guarda caso, perché era strumentale. Anche io ho detto, guardate, questa cosa dell'imminenza delle elezioni amministrative non la trattiamo, perché la tratterà chi verrà e sarà eletto. E quindi, cosa vuole che le dica? Ho dovuto intervenire perché hanno rifatto la mozione. Ma sapete cos'è successo? Che mentre la prima volta, quando c'è stato in aprile, c'era un casino di gente, c'era... mi sarebbe piaciuto di... cioè, è venuta la Vigo, sono venuti tutti adesso. Niente, c'erano 40 persone, 45 persone, 50 persone. Perché non ci sono più le elezioni? Non gliene fregava più un cazzo di niente a nessuno, non gliene fregava. Ma io non sto mica a farmi pigliare per il culo, io passo la mia vita a lavorare per il mio comune. Io non faccio queste sono troiate, va bene così. Finché tu sei sindaco, niente cittadinanza onoraria tolta, giusto? Finché sono sindaco io, la cittadinanza non la revo. Non la revo, quando ricordato per questo. E alla Segre niente, giusto? E alla Segre... cosa ti devo dire? Io verrò ricordato per questo. No, dico, e alla Segre niente, giusto? Alla Segre invece no. Ma io non vedo perché devo dare alla Segre la cittadinanza onoraria. Cioè, allora scusi, io ho un altro zio che è fratello di mio padre, anche quello lì, si chiama Riccardo, questo è morto qualche anno fa, è stato deportato in Germania, cazzo. E si rivoltano nella tomba perché li ha mandati Mussolini a morire. Li ha mandati Mussolini a morire. Ed è stato depositato, è stato deportato in Germania ed è tornato distrutto. Ma lei in onore di queste persone dovrebbe revocare la cittadinanza a chi ha mandato queste persone a morire, i suoi parenti. La cittadinanza oraria deve seguire determinati criteri, perché altrimenti io potrei dare la cittadinanza oraria a molti cittadini. Grande sindaco, grande, ciao. La Zanzara. Schifosi sudici, andate a tossire a casa vostra, pezzi di merda. Ci infettate anche il tutto, fate schifo, pezzi di merda. Parenzo, come ti sei permesso di offendermi in diretta nazionale? Solo io posso offendere te, brutto nano schifoso. Già che hai detto che io devo essere cacciato, nessuno mi può cacciare, non ti preoccupare. Io sono un grande intrattenitore. Senza di me è finito tutto. Quindi, la sfida io te l'ho lanciata, abbi le palle di accettarla. Dai, non vedo l'ora, Dave Blasco contro David Parenzo, sul ring di wrestling, il rappresentante della maggioranza silenziosa contro di me, quello che rappresenta la minoranza rumorosa. Rome or dead. Chi era quel cretino di poc'anzi? Posso dirti una cosa, caro Davide? Lui pensa che tu possa combattere con... ma in realtà non sei un wrestler. Chi è questo psicotico? No, è Dave Blasco. Non lo voglio neanche sudare, ma questo psicotico chi è? È Dave Blasco, uno dei protagonisti del wrestling italiano. Ma quello che ha detto l'altra volta di essere fascista... Chi è questo psicotico? Seconda domanda. Dalla telecamera di servizio che l'azienda mette a disposizione a chi trasmette dalla sede di Roma, distaccata di Roma, noto nello schermo la presenza femminile di una signora dotata di frutta. frusta. Esatto. Ora, tecnicamente, sì. Tecnicamente. Sì. Questo, visto l'orario anticipato, in genere queste cose si presentano attorno alle 20:34, no, direbbe Capanna. Una cosa di qualche visto minuto. Visto l'anticipazione dell'orario, mi devo preoccupare a quello che seguirà dopo, ormai. No. Perché no, se alle 20:01 compare donna munita di frusta e vestita come un ghepardo, evidentemente mi devo mettere alle velette, come direbbero, ecco, che mostra gambe e stivali neonazisti, peraltro, e stivali neonazisti, mi devo mettere tecnicamente alle velette. La parola alle velette potete andare a consultarla, è un italiano arcaico, potete consultare. Allora, alle velette, mi devo mettere alle velette. Allora, mi è venuta a trovare, caro Capanna barra Parenzo, mi è venuta a trovare qui in studio con grande gaudio anche di Gottardo. Beh, certo. Tu sai cosa vuol dire stare alle velette o no? Sì, stare sull'attenzione, alle velette, bellissimo. Allerta. Non ti piace la parola stare alle velette? Bellissimo, stupendo. Mi è venuto a trovare una signora che mi doveva fare un regalo, cioè ti porto un frustino da regalare a Feltri, ti piacerà molto questa cosa. Sì, è una dominatrice, non dico di sinistra, ma molto anti-salviniana, molto bene, già il nostro ospite, specializzata nella tortura di piselli sostanzialmente. Beh, vado, diciamo, a ridurre, questo, vado a ridurre così, diciamo, il suo non è di per sé un bene, vado a ridurre il suo mestiere in queste scarne parole, chiamiamola la sua specifica in queste scarne parole, e si chiama Lady Demonique. Monique. Eccoci qui, signora Lady Monique. Evviva. È molto anti-salviniana la signora De Monique. Su Instagram è Lady De Monique 66, giusto? Sì. No, è l'altro. Ah, è l'altro. Perché 666. Ma non stare subito ad andare a queste cose. È venuta solo per consegnarmi, che sia una sbandata. Ha delle unghie incredibili, ha delle unghie molto... molto prolungata, altra psicotica, ma non importa. Molto prolungate, che servono a torturare piselli, ecco. Pena, cosa esatto. Pazzesca, psicotica. Altra psicotica. Ti sono capitati anche peni storti recentemente, signora? Sì, sì. E li torturi anche quelli? Sì, li torturo, però fino a un certo punto, perché poi è storto e quindi non si può torturare. Non si può torturare. Cioè, le persone diventano con te degli slave pazzeschi, pagano per essere torturate, diciamo la verità. Esatto. Oppure si trasformano semplicemente in money slave. Cioè... Sì, anche. Infatti, il mio ultimo Money Slave avrà speso in 20 giorni circa 5.000 euro. Per te. 5.000 euro. Ma non l'ho mai visto. Come non l'hai mai visto? Non l'ho mai visto. Money Slave non si fanno vedere? Ma questo io non l'ho mai visto. E paga per fare cosa? Scusa, paga per... Per viziarmi. Ah, paga per viziarti. Cioè, Parenzo, capisci? Ogni tanto si fa pagare, ed è vero, perché è tutto certificato, me l'ha fatto vedere. Se paga... Cioè, viene pagata per essere per uno che vuole viziarla, e basta. Io capito? L'ho detto tante volte, il fatto che questa sia una società ormai degradata, degradata, e che infatti i risultati anche in alcuni casi alle elezioni si vede, non lo sostengo da oggi. Io sono 10 anni che bazzico ormai i bassi fondi radiofonici, e quindi voglio dire, questo fenomeno, hai capito, la società, diciamo, anche se questa qui dice di essere anti-salviniana, rimane una psicotica, che viene in una radio e dice che tortura i coglioni e ha un frustino ed è vestita come in un film di Tinto Brass ambientato negli anni 20, per me è una psicotica, cosa ti devo dire? Scusa, una che guadagna torturando, ma sarà un genio o no? Io non cambio il giudizio, Parenzo, ragazzi, secondo me lei si sta eccitando. Questo è il posso punto, darle una gara? No, posso? No, guardi, posso dire, guarda, io mi metto anche in piedi, no, così. Posso dirti, lei dice che no. No, mi si crea, se la sento, la fossa delle Marianne, se la sento, perché... Una rientrata in dentro, mi fa talmente orrore. Scusate, voglio intervenire io. Io voglio dire una cosa. Innanzitutto, voglio sempre salutare Parenzo, che sei nel nostro pensiero. Ma vaffanculo, dai. Io ci vado piano piano con calma. Dove? Però voglio dirti una cosa. Dimmi. A nome di tutta l'Italia, devi andare a fare in culo, bastardo. Grazie, Pazzaglini. Però, adesso voglio dire una roba, la signorina qui presente con quelle unghie lì che mi sembrava Eric Clapton, che cosa fai? Suoni la chitarra, no? No, suona altre cose. Non ho capito. Ma tu ti bene. Faresti Pazzaglini, ti faresti fare qualche cosa? No, se vuole posso io picchiare lei, lo faccio anche gratuitamente. No, non è il caso. No. Qui siamo per consegnare questo frustino a Feltri. Frustino a Feltri. Perché vuoi consegnare il frustino a Feltri? perché deve frustare i suoi dipendenti che gli rubano le merendine e che gli smontano le tavolette del cesso. Allora, questo qua lo consegniamo al direttore Vittorio Fetti, poi se anche lui vuole utilizzarlo per scopi sessuali può anche farlo. Sì, se vuole poi contattarmi per farsi frustare, più che volentieri. Ma tu l'immagine Fentri. Del direttore Fentri? Sì, sì, perché non andiamo d'accordo politicamente, quindi si merita due frustate. Ah, okay. Ecco, Varese, tu te la vedi l'immagine del direttorissimo, del direttorissimo colpito dalle fruste di Lady Demonique? Questo potrebbe essere anche... Io me lo vedo a frustare, invece i suoi dipendenti sarebbe una forma di legittima difesa dai ladri di tavolette del cesso. Bravo. Sì. Allora, grazie Lady Demonique, l'aggiorno sul regalo consegnato a Feltri. Grazie, grazie. Vai, vai. Ciao. Links, rechts, geradeaus. Du kommst hier nicht mehr raus. Links, rechts. Simone da Verona, vai. Volevo dire a Gottardo che si deve vergognare per aver chiesto a un ex detenuto se in galera gli hanno fatto il culo. Bravo, giusto. Domanda legittima. Lei è stato in carcere, Simone da Verona? No, per fortuna ragione, no, però dei conoscenti li ho avuti. E le avranno raccontato che ogni tanto qualcuno lo piglia in culo. Scusi, ma non è normale, allora lì si parlava di una cosa particolare, però si parlava, devo dire, a vantaggio di Gottardo, certo, che si parlava del sesso in carcere. Era legittimo. Non è che uno era un ex detenuto, cosa che ognuno poi può chiedere quello che vuole, a domanda uno può rispondere o non rispondere. In questo caso, però, si parlava del sesso dentro la galera, cioè si parlava del sesso dentro le sbarre. Amico mio, al di là allora facciamo così: supponiamo che una clandestina vi chiami, che è stata in uno dei centri di accoglienza. Beh, certo, una delle domande, lei è stata stuprata. E lui cosa gli chiede? Sei stata stuprata? Beh, certo, assolutamente. Se stiamo parlando della violenza sulle donne, posso domandarglielo oppure no? Non lo chiederesti. È una cosa talmente semplice che può capirla persino un cretino come lei. Cretino dice tuo padre, e comunque non lo chiederesti mai alla clandestina. Mentre l'italiano che è stato in galera. Ma chi cazzo lo dice? Ma cosa ne sa lei delle interviste che ho fatto io durante la mia carriera di giornalista? Tranquillo, non si parla del giornalismo. Soprattutto perché ti sei occupato di cronaca nera e quindi di gente che è stata in carcere, Simone, un attimo, qui si stava parlando di una cosa, di una grande iniziativa. Era secondo attinente. Me la domanda era attinente, non per i coglioni. Gottardo era contrario all'iniziativa della Regione Toscana di aprire delle stanze al sesso per i detenuti. Io sono d'accordissimo con questa cosa. Gottardo dice di no perché altrimenti ma questo che lavoro fa per insegnare a me come si fa l'intervista? Che lavoro fai, cretino? Che lavoro fai? Dimmi il lavoro che fai. Dimmi il lavoro che fai. Dimmi il lavoro che fai. Che vuoi insegnarmelo? Che lavoro fai, mentecatto da Verona? Dimmelo. Non vergognarti. Ma tu ti devi vergognare di essere un giornalista e fare certe domande. Caro mio, io lo sono stato per 15 anni e l'ho fatto con grande onore. Non mi insegni a fare le interviste, hai capito? Stai calmo. Hai capito? Non mi insegni a fare le interviste. Stai calmo, fai parlare Simone un attimo. Allora, Simone, non ho capito. Io sto cercando di spiegarti che Gottardo voleva fare una domanda. Una professione ignota. Sul sesso in carcere. E cosa c'entra il sesso in carcere con l'essere inculati dagli altri? È una forma sessuale. È una forma di violenza, no? Di sesso, ma che cazzo c'entra? In alcuni casi è una forma di violenza, ho capito. Vuoi aver ragione, te la do. Certo. Hai ragione tu. Ma no, ma non è questione. Poi mi spieghi, Simone, il tuo grado di istruzione e il tuo lavoro. Vabbè, ma che c'entra? Non è che se uno fa il giornalista, a fare le interviste, hai sbagliato persona. Okay, ma non è che se uno fa il giornalista per forza fa delle domande corrette. Qualche volta capita a tutti di dire delle cazzate. Era attinente la mia domanda, io lo rivendico. Ma vai a fare in culo. Vai, Mauro da Mantova, dai. Ciao Simone, ciao. Mauro da Mantova, dai. Mauro, chi è Mauro? No, vabbè, Mauro, dai. Ma perché mi avete messo in mezzo Mauro adesso? Ha chiamato Mauro, qui passa tutto al centralino. Non si capisce un cazzo di quello ma che dice. Volevo fare gli auguri a Francesco, a Parenzo, che ha compiuto 44 anni. Giusto? Però mi ha detto un'altra persona di fare gli auguri. Ma chi? Ernesto Carbone, ma più calcio sua ma moglie. Chi Ernesto? Ma Mauro, mi ha rotto i coglioni. Vai da un logopedista. Non si capisce quello che dici. Non si capisce quello che dici. Pensi di avere notizie che ti inventi solo tu. Allora cosa? Che mi sta dicendo? Ernesto Carbone. Ma chi se ne frega? Non ci interessa quello che dici. Le cose che pensi di sapere, certo, non ci interessano. Non ci interessano, Mauro. Le cose non ci interessano, le cose che pensi di sapere, le follie che pensi di sapere, non ci interessano. No, penso. Non penso ma non mi interessa, non interessano nessuno, interessano ma quattro si quattro tuoi l'acquarella di carbone, penso. Ma dai, su. Volevo dire, ma prima lui ha fatto la pappardella, no? Ha fatto la pappardella che il signor Daniel ha preso la laurea nonostante che sia stato ma arrestato. Prima l'ha detto Palincerato. Che ha preso la laurea. Mauro, sei moscio, sei morto, sei no, finito. Purtroppo no. Purtroppo no. Sei finito. Sei finito. Io andrò a Mantova al funerale di Mauro. Aspetta, voglio dire una cosa: ma dov'è che hai comprato il dizionario? All'IKEA, in scatola di montaggio? Non si capisce un cazzo cosa dici. Stai distante da quel telefono. Te lo dice un cervello disabitato. Hai capito? Cervello disabitato è buono. Diversamente intelligente. Che incontro di menti. Mauro, allora il signor Pazzaglini ti ha definito un cervello disabitato. Perché non sai funzionare, non sai far funzionare manco il cellulare, capito Mauro? Ascolta, se voi avete le lingue di merda, non è colpa mia. Mauro, ma che dici? Sei finito, ma sei morto. Non è il problema del cellulare, è il segnale in partenza dalla lingua che è scollegata al cervello e mancano quattro tipi di consonanti. Non voglio parlare con lo zero. Io lo zero lo voglio evitare perché quello è scivolato vicino a me a Modena. Io verrò a Mantova. Sei finito. Non si capisce niente. Non si capisce niente quello che dici, non si capisce, ormai nemmeno più starnazzi, certo. Non c'è più la cornetta, non c'è più il telefonino nelle patatine. Io ho trovato nelle patatine sto telefono. Pazzaglini. Ecco, com'è che tu come lo definiresti Pazzaglini? Mauro, un diversamente Donato. Intelligente. Ma anche un cervello disabitato. Disabitato naturalmente. Ma che parlare? Poi, non si capisce. Tra le altre cose, il cellulare nuovo l'ha comprato con reddito di cittadinanza. Lo compra con il reddito di cittadinanza il cellulare nuovo. Continuate a interrompere. Per quanto non ci siete 3, 4 che c'è. Ma scusami, Mauro, dove l'hai comprato con reddito di cittadinanza, certo, il telefonino, naturalmente? Certo. Mantenuto da Mantova. Certamente. Ma sei un mantenuto. Certamente. Mantenuto, vergognati, mantenuto da Mantova. Fermo, ciao Mauro, sei morto, sei finito, non si capisce niente, aggiusta il cellulare e anche se aggiustassi il cellulare escono solo... Aggiusta il cervello. Devi aggiustare il cervello, quello, certo, va bene, ma escono solo... Sì, giù. La zanzara. Stamattina, come tutte le mattine, mi alzo alle 5:30, scendo, mi faccio un toast, il caffè e una spremuta d'arancia. Mi beve il caffè, mi mangio il toast, ho lasciato la spremuta arancia sul tavolo, dopo mezz'ora scende mia moglie e inizia a dirmi: vedi che c'è la spremuta da bere, vedi che c'è la spremuta da bere. Alla terza volta le ho risposto come la rumena: fatti i cazzi tuoi, puttana! Fatti i cazzi tuoi, puttana! Acquista o noleggia? Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Con Noleggio Chiaro puoi scegliere oggi l'auto di Fiat Chrysler Automobiles che desideri ed acquistarla dopo 3 anni a un prezzo garantito. Ad esempio, Alfa Romeo Stelvio è tuo da €399 al mese con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 29 febbraio e soggetta ad approvazione Lisis, durata del noleggio 36 mesi, anticipo €11.400. Info su noleggiochiarofca.it. La zanzara. I'm the flame. buonasera Giuseppe, mi sembrava di essere sul set di un film porno. Fatele più spesso questi collegamenti, eh. Quali collegamenti? Con la Morellata. Con la Morellata, con chi? Con mio fratello, non ho capito. Perché io non posso infilarti un pene finto nel culo e tu devi infilare il tuo pene nel mio di culo? Ma che pezzo di merda sei, Cruciani? Ma sai che questo è un problema? Giuseppe, ieri sera a Firenze è stato bellissimo. Ci siamo divertiti tantissimo, tu, Parenzo, la corte, ma sì, anche Gottardo. Ma insomma, dopo aver visto tutto questo, sei sicuro che vuoi chiudere questa disgraziata trasmissione? Ne sei davvero sicuro? Parenzo, vergognati, non hai assaggiato lo squirt della signora. Non si fa così, eh? Avanti tutta. Beh, non è ancora il momento di cominciare a farci i pompini a vicenda. Sì, chi è? Chi è? Telefonato. Stai parlando? Diretta. Sì, sì, no, ma stai parlando per venire alla Zanzara. Mi hanno chiamato un numero, adesso sto con l'auricolare, dunque voi non potete sentire la persona che sta parlando. Che vuol dire che vuoi venire alla Zanzara? Non ho capito. Chi è? Che vuol dire che vuoi venire alla Zanzara? Luciano telefona durante la diretta. Ma non è una fermata di autobus. Un auricolare. Pazzesco. Allora, devo segnalare alcune cose molto serie. Una persona della comunità ebraica di Milano che voglio esaltare in questa occasione. Una persona non molto conosciuta al grande pubblico che si chiama Davide Romano. Vabbè, questo è uno dei miei più cari amici che c'è. Esatto, ovviamente. Che ti contraddice su tutti i fronti. Sì, su vabbè. Tutti i fronti. A proposito di Salò, dell'antisemitismo, di tutte queste cose qua. E per dice, fortuna che è un suo caro dice amico, costui, molto. Dice uno dei miei migliori amici. Sicuramente uno dei suoi migliori amici, però certo. Lo anche tra amici, anche Giuseppe, assolutamente, lo conosce da tanti anni, certo. Anche tra amici si può non essere d'accordo, mica si può essere d'accordo, anzi, le persone che sono d'accordo sempre, c'è qualcosa che non va. Lui dice che cosa? Che l'antisemitismo esiste naturalmente, ci sono episodi gravi anche in Italia che bisogna sottolineare, però, dice, ho il dovere morale di dire, anche se va contro quello che troppi media vogliono sentirsi dire, che esiste l'intolleranza antiebraica, e se è sempre troppa, ma quell'immagine di antisemitismo che traspare dai nostri media non corrisponde al paese reale. In sostanza dice, sì, esistono degli episodi, però l'Italia, a differenza di paesi come la Germania, come la Francia, eccetera, non c'è l'assalto all'ebreo. Non c'è l'ebreo che viene assalto. E meno male, siamo orgogliosi di questo. Ancora non dunque c'è. L'allarme antisemitismo è una puttanata. È un... Questo no. Lo dico io, non lo dice lui. Lo dico io, è una puttanata. È episodi una puttanata. Si segnalano in continuazione episodi nelle scuole. Ma siamo in collegamento. Ma siamo in collegamento con Luca Siliprandi da Padova. Buonasera, dottore. Buonasera. Buonasera a voi, bentrovati. Padovani, gran dottori. Allora, che mestiere fa Siliprandi? Beh, potremmo definirlo il Pininfarina della vulva. Nel senso che lui rifà la carrozzeria esterna delle vagine. Diciamo che prima di quello faccio il chirurgo plastico, sono specialista in chirurgia plastica, mi dedico anche a questo. È un lavoro meraviglioso. Diciamo che in maniera invidierà. In maniera particolare a questo, diciamo la verità. Cioè, dalla vulva guadagna parecchio grazie alla vulva, o no? No, assolutamente sono guadagni marginali. Ah, guadagni marginali. Però, fa piacere. Non si disdegna. Tutto aiuta. Allora, lei intanto fa una differenza fondamentale tra vulva e vagina, diciamola tutta. Cioè, i suoi interventi... Spieghiamolo al grande pubblico. Uno dice vulva. Vulva è un bel nome, no, Parenzo? Anche un nome interessante. È un nome tecnico, va bene? Questo non c'è problema. Allora, vulva sono i genitali esterni, cioè quelli praticamente che vede l'occhio umano quando la donna divarica le cosce. Non c'è dubbio. La vagina sta dietro la vulva, oltre il cosiddetto ostio vaginale. È retrobottega. E quindi è il retrobottega, come dice il buon, non mi ricordo più. Gottardo. Signor Gottardo. Ora io voglio dire, lei nei giorni scorsi cosa ha detto? Senti la felicità di questo luminare che ride. No, ha studiato alcune cose dai casi che sono arrivati, diciamo, alle sue attenzioni. Cioè il fatto che le ragazze, anche giovani, vogliono farsi ritoccare la vulva. Ma come è possibile? Non tutte, certo, anche le ragazze giovani. Ma come mai? Lei non le fa un po' impressione il fatto che lei guadagna su questo, qui, cioè, va bene. Cioè, non è che pure, su questo come ognuno guadagna sul suo lavoro. Ma certo, non c'è dubbio. Guarda, io ho 60 anni passati, quindi si figuri se io non noto le variazioni e diciamo così le debolezze e i disagi sì. della società che evolve, che sono maggiori nelle giovani che e nei giovani purtroppo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che alla base di questo, alla base di questo disagio ci sono due motivazioni ben fondate che sono già state oggetto di studi sociologici e quali? D'altro, a cui io non mi dedico perché io sono, diciamo, l'ultimo della catena. È un carrozziere, sì. Carrozziere. E sì, l'ultimo della filiera. Il primo è che la donna si depila e sono soprattutto le donne giovani. Per fortuna, per cui diciamo la volontà di ritoccarsi è arrivata soprattutto con la depilazione. Certo. Cioè. Questo è il 50%. Sì. Cioè il 50% è la depilazione, quindi la donna si vede come è fatta, conosce la propria morfologia che una volta era per lo più sconosciuta. Certo. Il secondo 50% l'ha fatto la pornografia dilagante, sì. su cui non esprimo nessun giudizio però esiste, c'è. Etico, ma esiste, c'è, e anche qua ricerche ben dettagliate ci dicono che è sempre più diffusa a livello cellulare, smartphone, per cui la consultazione è immediata, rapida in qualsiasi luogo. Per cui, scusami, per dire... riassumo, sì. dalla depilazione sempre più diffusa, purtroppo dico io, purtroppo, sì. Gottardo dice per fortuna. Sì, cioè, no, purtroppo da un punto di vista della salute, Giuseppe Cruciani ha assolutamente ragione. Lo vedi? Lo vedi? Non è salubre togliersi i peli, non tanto e non solo per le dermatiti e le relative infezioni che possono conseguirne, quanto per il fatto che il pelo pubblico è un cuscinetto che crea un microclima ideale perché la flora saprofitica. Sì, però professore, fai concludere che è interessante, è un crescendo. La flora saprofitica residente impedisce e limita infezioni di patogeni esterni. È finalmente una parola definitiva su questo. Però il sesso orale è molto più facile su una vulva depilata, abbia pazienza, questo è fattuale. Ma quello che c'entra, quello è un altro discorso. Il sesso orale su una vulva depilata è molto più agevole. Vabbè, ma quello che c'entra. Sicuramente, ma questo quello ha a che fare con altre cose. La mela biologica che è brutta ma buona, con la mela evviva. Giusto, con la mela tradizionale. Dunque, questo è il combinato disposto di queste due cose, cioè il 50% abbiamo detto la pornografia. Produce che i consumatori di pornografia, che sono prevalentemente, anche se non esclusivamente, maschietti, sì. vedono delle vulve, delle forme che considerano come ideali, perché sono più o meno, riproducono tutte lo stesso prototipo, cioè grandi labbra toniche, piccole labbra appena contenute in queste, ovviamente depilate, e purtroppo succede che questi ragazzotti vanno dalla propria partner e dicono: sai che tu non ce l'hai mica giusta. Ma cioè, mi stai dicendo, ti do subito, cioè passiamo al tu, mi stai dicendo che ci sono delle persone che vengono da te, delle ragazze, a farsi ritoccare la vulva, e dicendo: il mio ragazzo la vuole così, con le foto o magari con le immagini di YouPorn o di Pornhub? No, purtroppo no, magari fosse stato così. Io ho avuto due ragazze giovani tra i 20 e i 25 anni, in tempi recenti, le quali sono venuti, non dico in pianti, ma con una profonda disagio e una grande depressione, dicendo: io non faccio più l'amore perché il mio moroso mi dice che io non sono normale. Per cui io voglio dire, chiaramente io lavoro con una psicologa al mio fianco. Ma io tu le hai operate poi queste qua? Ma certo che le ho operate quando la psicologa mi ha dato luce verde. Non c'è un intervento. Ma queste che cosa volevano? Che tipo di ritocco pretendevano? Prima di tutto, in questi due casi, diciamo, regolarizzazione delle piccole labbra che erano procedenti rispetto alle grandi. Cioè erano eccedenti. Cioè l'effetto paperino praticamente. L'effetto non so come chiamarlo, comunque mamma mia, e però Parenzo dice mamma mia, però Parenzo dice mamma mia, però voglio dire ecco mamma mia, non bisogna dimenticare che il fenomeno esiste. Esatto, fenomeno esiste, lo stiamo affrontando. Ma perché bisogna raccontarlo qua? Esiste, ma perché bisogna raccontarlo? Ma perché è un fenomeno sociale. Quindi, ma cos'è sociale? Se Parenzo si scandalizza, parliamo di automobili, parliamo di denaro, non so. Quindi il dottor Siliprandi ci sta dicendo che siamo passati dall'invidia del pene all'invidia della vulva. Ma non so se ci sia l'invidia, però questo senti è un problema scienziato che esiste. Ed è auspicabile che si torni indietro. C'è un movimento che adesso... Lei guadagnerebbe di meno però, maestro. Ma cosa vuoi che guadagni di meno? Non è quello. Cioè, io non vivo per il guadagno, io vivo perché amo il mio lavoro, amo le persone che mi si rivolgono in quanto esseri umani. Quindi, fermi tutti che torniamo fra pochissimo con il mitologico Luca Siliprandi, il carrozziere della vulva, definizione non mia ma di Pini in farina. Adesso la borsa. La zanzara. È arrivata Baffone. Vai, vai, vai, allo fuoco, no! È venuto Baffone! Ecco te lo dico, non bene! Viva la libertà! Viva la libertà! Grazie per la vostra collaborazione! A Napoli! Video, parliamo seriamente di un argomento molto importante, quello lì del coronavirus, ed è una cosa molto grave, dobbiamo stare attenti, usciamo poco, dobbiamo andare proprio almeno a scuola, poi almeno uscire un po' la sera. Godo come un riccio. Ieri, dopo la fine della gara, o la fine del calcio, non lo so, vabbè, comunque ieri a fine partita ho fatto un tweet: voglio espatriare, perché non se ne può più, è meglio andare fuori, prendersi una vacanza, disintossicarsi. Naturalmente in tanti di fede non colorata si sono divertiti a rispondere: state tranquilli, lo decido io quando, come e se. Sì. Quando ci sono questi abili qua, tipo Valeri, eccetera eccetera, no, non vigiamo mai niente, Carlo, ce lo sentiamo solo, non vigiamo mai niente. Ah, a proposito, ho uno scoop. Oggi pomeriggio il signor Valeri, l'abito di ieri sera, Vattorino a scegliersi la mano. No, vabbè, che se ne dici, sì, sì, sì, sì. Parliamo di cose serie, vediamo come bisogna combattere seriamente. Follia a Napoli. Ogni tanto torna l'anti-juventinismo militante. Il piagnisteo napolitano. Albino e un ascoltatore modificano il VAR e ti celano la verità. Dovremmo disdire gli abbonamenti. Sky, Pezzotto, sentiamo questo. E noi staremo a loro gioco, che Bullet, Cascai, Premium, che Upezzot, i soldi vanno sempre là. E fin quando si parla per telegiornale, cul giornale, va pure un ricordo, però Rumeni che sta andata a partita, non cambierà niente, ragazzi. Non cambia niente, rassegnato, non è una rassegnazione, è proprio un'offesa alla nostra intelligenza. Cioè, non c'è per sordo di chi non vuol sentire e non c'è peggior bugiardo di chi mente a se stesso. La Juve è un'associazione a delinquere. I toni si alzano, sentite. Guarda, io spero che... Carlo, ma scusa, Irica che è un'associazione a delinquere. No, vabbè, okay. Questo non si può dire, si va in galera. Quasi, no, casa va in galera, quindi non lo diciamo, perché quasi va in galera. No, se diciamo questa cosa andiamo tutti in galera. Io che te la faccio dire, è apprezzami, quindi... No, Carlo, ti voglio fare un esempio. La società del lingua, no, cioè come capo mafia, dici, però a capo c'è Taiwan, ma non è così economicamente, economicamente è più forte, però bisogna far sì che, come hai detto tu prima, i presidenti debbano incominciare tutti gli altri perché, lo faranno. In un'altra trasmissione a un certo punto un ascoltatore dice: la Juventus appoggio reale. Senti, è incredibile, ragazzi. Tu cosa pensi? Potrebbe esistere un campionato appetibile senza la Juventus? Allora, io voglio rispondere a questo amico di Maddaloni. Il Tribunale di Napoli c'è, cioè, il sottopasso che dà nel carcere di Poggio Reale. Esatto. Quei personaggi dovevano essere trasferiti per sotto. Questi sono. Poi c'è un ospite in una trasmissione che si chiama, non mi ricordo, Ignazio Senatore, che non so cosa faccia, ma insomma, che dice: senti, sarebbe un mondo migliore senza la Juventus. Come on, come on, come on, come on. We gonna burn, we gonna burn tonight. Salvatore, grazie. No, voglio dire un'altra cosa. Vai. Scusa, sì, beh, prima che chiudi. Vai. Ecco, io ti farei la madre di mia moglie. Cioè, guarda, a un campano. Rispondevo della Campania. Ragazzi, buonasera. Ciao, Salvatore. Ma cari amici ventini, voi siete... E tutti rispettano, il carcere è una sfortuna per le persone. Però voi particolarmente siete pregiudicati, dovete stare solo zitti e basta. Sarebbe molto migliore senza i Juventini, ti dico francamente, io lo dico sempre a tutti i miei amici Juventini, sarebbe un mondo migliore, guarda. Vabbè, siete pregiudicati. Comunque, la parola pregiudicati. Gli avete risposto. Roba incredibile, ma eravamo con Luca Siliprandi, che è un chirurgo plastico specializzato, però insomma si è occupato a lungo. Io volevo riassumere la situazione, caro Siliprandi, riassumere in questo modo. Vengono da lei sempre più giovani, età, possiamo fare un range di età? Beh, mamma mia, ci sono due categorie, dai 20 ai 30-35 e dai 50 ai 65. Però vengono sempre più giovani, diciamo. Da lei vengono sempre più giovani a farsi ritoccare sostanzialmente la vulva. Questa è la prima cosa. Che tipo di interventi sono? Ce li riassuma in pochissime parole. Che tipo di interventi? Anestesia locale, intervento ambulatoriale, durata di circa 40 minuti. No, ma che tipo di interventi? Per fare cosa esattamente? Quali sono le tipologie? Allora, primo, piccole labbra per renderle simmetriche e meno prostetiche. Simmetriche. Grandi labbra, ma questo riguarda le ultra cinquantenne, quando sono avvizzite si fa il lipofilling, cioè l'autolipotrapianto. Si aspira il grasso dall'addome o dalle cosce e si mette le grandi labbra. E si ridà volume, quindi. E si ridà volume. Lifting del pube, perché col passare degli anni il pube scende, quindi si fa un'incisione sovrapubica e si fa il lifting del pube. Ma il tutto in 40 minuti? No, questo no, questo no. Labbra. No, le piccole labbra in 40 minuti, ci metti meno metti di più a fare la convergenza dell'auto sui pneumatici davanti che non a rifarti questo la sicuramente. Molto bene. Ma è vero che vengono anche musulmane per farsi ripristinare il mene? Sì, capita, certo. Beh, capisci, Parenzo, cioè, per ritornare vergini. Quante ne vengono all'anno di musulmane per tornare vergini? Ma diciamo che sono più quelle che vengono per la visita che poi quelle che dopo la visita vengono per l'intervento. Ma poche, diciamo, per quanto riguarda la mia esperienza, una decina all'anno. Beh, 10 all'anno di musulmane che vengono dicendo: io voglio tornare vergine perché mi devo sposare e non voglio che mio marito scopra il fatto che già sono stata deflorata, in sostanza. Sì. E voglio rimettere sicuro. Mi scrive un ascoltatore live, dice: David, perché stiamo ascoltando il cosiddetto carrozziere della vulva? Sarà anche un professionista, ma è chiaramente un mitomane. È un designer. Che dici, Pastellini? Signore, questo lo invito in clinica Città Giardino, così passa 12 ore al giorno. No, mi ha scritto così. Che dici, Pastellini? Permettete, dottore, mi scusi, io sono un cervello disabitato, ma con queste donne che si rifanno le tette, rifanno il pube, rifanno la bocca, rifanno le labbra. Quando una donna così ti muore, dov'è che la metti? Nella plastica, nella differenziata, nell'umido? Io vorrei sapere. Voi scherzate, ma esiste già il problema dello smaltimento delle protesi mammarie nei cadaveri portatrici di protesi mammarie. Però esistono questi problemi? No, non ho capito. Esiste il problema di smaltimento di che cosa? Scusi, professore? Delle protesi mammarie nelle donne che muoiono e si portano sottoterra. Non degrada. Posso dire mamma mia? Ma com'è? Ma il problema affrontato da chi, dottore? Scusi, affrontato da chi? Chi è che affronta? Ho letto una rivista scientifica che parlava anche di questo. Noi ci scandalizziamo perché la plastica può inquinare, ricordiamoci che c'è il silicone, quello dei vestiti, ma anche quello delle tette. Se vogliamo parlare seriamente dei fenomeni, siamo al top assoluto. Grazie, professore, a presto. Ciao. Buona trasmissione. Allora ragazzi, Victor da Como, vai. Sì, shalom, dottor Parenzo, tanti auguri, shalom, come è stato? Shalom. Bene, grazie. Dimmi. Molto velocemente, voglio proporre un nuovo format a lei nella veste di Frecciero. Si chiamerà La Villa Occupata, sarà girato in Umbria in una villa di un noto conduttore radiofonico romano. La Villa Occupata, titolo la lungo, villa occupata, dai, lungo. Lo spiego velocemente, mandiamo alla redazione della RAI che entrerà in maniera coatta in questa villa di un noto conduttore romano. Ci mettiamo dentro due famiglie di zingari tra i quali c'è una faida, alcuni energumeni senegalese è il cinese con la tosse, quello di Sanremo che diceva. Vabbè, non è un format chiaro, non c'è chiarezza, no. Scusi, Freccero, non c'è chiarezza. Adesso arriva la chiarezza, adesso ma non c'è violenza. Aspetta, qual è la conclusione? Qual è? Mette insieme dentro questa casa qui dei sì, zingari. Ci mettiamo Mario Giordano con una scusa di uno scoop, lo sigilliamo, alla regia mettiamo Donato, quello del... E la mattina il compito, la sfida giornaliera sarà quello di placare la rissa tra la famiglia di Zingari che gli verranno date delle cioè una specie di Giordano Survivor, stai dicendo. Bravo, cioè, come fa Giordano a sopravvivere tra un senegalese molto incazzato appena sbarcato? Senegalese non è incazzato. Il senegalese Bongo, voi la conoscete la storia di Obelix che è caduto nel pentolone? Ma io aspetta un attimo, voglio capire. Il pentolone di Chalice, c'ha sempre il cazzo duro e fa il massaggiatore. Al pomeriggio sarà sottoposto al massaggio di Bongo e la sera dovrà condividere un lettino singolo con il cinese rantolante con quella cazzo Giordano di Survivor, cioè com'è Giordano, questo format? Com'è Giordano questo? Naturalmente viviamo naturalmente in un'epoca della quale chiunque pensa di poter fare televisione naturalmente, però in questo caso c'è da dire che questo potrebbe essere un validissimo collaboratore naturalmente per scrivere nel weekend nuovi programmi che come al solito non verranno approvati dalla dirigenza della RAI. No, sì, ma lei vede bene. Aspetta, lei vede bene, Freccero, questo format in cui c'è, no? Naturalmente io vedo molto bene tutto ciò che porta la realtà. Violenza, naturalmente, ma lo devi vedere. Cioè, quello è preso d'assalto da Zingari, Giordano. Dai, quello funziona. Ma chissà come sarebbe il Parenzo Survivor, invece. Oltre a Efe Ball, chi potrebbe partecipare? Borgonovo, un'ottima idea. Se l'audience dovesse calare per ravvivare la festa, ci mettiamo dentro Daniele Capezzone. Beh, questo non è male. Ti ripresenti anche questo: quando porti Capezzone a una festa, immediatamente scappano tutti. Immediatamente. Ciao, Victor. Ciao. Allora, ragazzi, vi faccio sentire un audio. Italiani! Aspetta, che ha creato. La serie di San Valentino, che ha creato qualche polemica. Un audio che ha creato qualche polemica. Ma che hai da fare tu? Aspetta. Cazzi miei. Un audio che ha creato qualche polemica del portiere della Juventus Buffon. Ieri sera, a un certo punto, uscendo dallo stadio, si ferma davanti a un giornalista, un fan cinese, e fa una battuta su ma il Corona, mentre firma l'autografo, Corona, Wuhan. Ma ragazzi, polemiche su Buffon, ma non c'è nessuna polemica su Buffon, era lì, ha fatto una battuta davanti al cinese, non è che ha detto oddio non voglio fare l'autografo perché c'è un cinese davanti, ma dai, ma siete ridicoli. Devi stare attento, è Corona, non è sguardo, cazzo c'è di Wuhan, cazzo sei di Wuhan, ma non si può più nemmeno scherzare, non si può dire un cazzo oggi, nulla, Michele da Milano, nulla non si può dire, niente. Ma perché Pazzaglini, dov'è stasera? Pazzaglini, vai dai cinesi o no Pazzaglini? Vabbè, tu frequenti i cinesi o ti fanno orrore? Allora ti dico la verità, sì, dimmi. Io ieri sera sono andato a mangiare qui a Milano ai cinesi, allora bravo, stasera mi aspettava, si chiama Michele, non voglio far pubblicità perché no, non sono lo dire, malabbiate. infatti. E lui mi aspettava, dunque non te ne frega un cazzo di andare a un cinese, no, vai tranquillo. No, ma posso domandare una cosa a Pazzaglini? Il pesce che coltivano, che fai mangi lì, coltivano, lo pescano qui in Italia, non questo viene certo dalla Cina. Allora che dice? Pazzaglini, ma lei questa sera lo aspetta Michele, è San Valentino, delle due l'una, o lei è fidanzato con Michele oppure è solo come no, un mi dispiace, cassonetto. Io sono molto, molto moderno. Non si tromba stasera Pazzaglini? Sono per il taglio classico, mia moglie mi sta aspettando. Ah, ok, mi sta benissimo, allora, complimenti alla signora. Michele, allora. Dimmi Michele. Che c'è? Dunque, mi sono rotto i coglioni di quelli che sputano per strada, ok? Grande allora, piaga. Va, scusate, per I lama. E chi è che sputa? I lama. C'è il lama. Allora, passa un cinese, si sente... poi un arabo passa... gli italiani invece non sputano mai. No, Scruciani è uno di quelli che sputa. Infatti, sì, ogni tanto sputo dire... per strada, tutta la ma vita. Che sì, assolutamente. Ma perché? Ma saranno cazzi miei, perché? Ma qual è il problema? Non ho capito. Anche a me è capitato ieri. Fa schifo. Devo fare lo slalom fra gli sputati terra. Ma non per i coglioni. Fermi tutti! Italiani! Italiani!